Leggo sempre più spesso opinioni relative a come ci sia pervenuta la parola di Dio scritta, e meno. A mio avviso troppi sono gli studiosi biblici sostenenti che la Bibbia in nostro possesso sia il risultato di una manipolazione del volere di Dio, opinione secondo la quale lo scrittore biblico avrebbe, in fondo, espresso niente più che la propria visione del mondo, le sue intuizioni e riflessioni su Dio. In definitiva, per questi studiosi la Bibbia è una grande e mirabile narrazione nella quale l'uomo parla di Dio. Per me una simile concezione della Bibbia ha dell'assurdo, per alcuni motivi. Il primo è che gli scrittori biblici hanno sempre sostenuto di parlare da parte di Dio, esprimendosi con l'affermazione «Così dice l'Eterno», Is 43.1, e non «Io dico». L'Apostolo Pietro ha tolto ogni dubbio in merito scrivendo «Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale, infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo». Da tenere presente che il termine profezia non è riferito solo ad annunci futuri, ma a tutto ciò che è stato scritto. Per cui, davanti alla dichiarazione secondo la quale degli uomini avrebbero messo per iscritto soltanto delle proprie opinioni individuali, va da sé che ci si trovi a dover decidere se considerare Pietro un bugiardo, oppure dei mentitori teologi attuali che lo contraddicono. Inoltre, per poter dire con tanta sicurezza com'è stata scritta la Bibbia, bisognerebbe essere stati presenti. E questo è impossibile per chiunque, visto che sono trascorsi più di 2000 anni. Abbiamo una testimonianza in merito proveniente dal profeta Geremia, il quale non scriveva di proprio pugno, ma dettava le sue parole a uno scriba di nome Baruch. La medesima procedura fu adottata da Paolo in relazione alla lettera ai Romani, che fu scritta da Terzio sotto dettatura dell'Apostolo 16.32, ma anche in questo caso delle sciocchezze sono state dette. Infatti ho letto l'opinione di qualcuno, secondo la quale forse Terzio poteva aver scritto sbagliato, perché uno dei presenti, come poi faceva a saperlo, poi non lo so, avrebbe anche potuto dare un colpo di tosse, confondendo in questo modo chi stava scrivendo. Insomma, si dice di tutto, pur di non dire che la parola di Dio attualmente in nostra mano sia attendibile e che di conseguenza ogni parola può essere presa sul serio e da parte di Dio, anche se, oggettivamente, possiamo riscontrare delle minime e per nulla invalidanti differenze tra le migliaia di scritti antichi. Se non fosse così, noi saremmo tentati di adorare il testo, anziché Dio stesso. Forse la ragione più incalzante per dire che gli scrittori non potevano essere ispirati da Dio proviene dalla propria esperienza. Per quanto possiamo essere intelligenti, acuti e perspicaci, se non abbiamo fatto certe esperienze troveremo difficile comprendere e accettare le testimonianze del prossimo, dando pertanto a ogni testimonianza quel tanto di credibilità che meglio si accosta a quanto da noi sperimentato. Possibile, ci chiediamo, che gli scrittori biblici abbiano scritto sempre da parte di Dio sotto al controllo dello Spirito Santo? Non erano anche loro esseri umani soggetti a sbagliare? In genere, come risposta, si riportano le parole di Gesù Cristo rivolte a tali scrittori. Vi ho detto queste cose, stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. GV 14.24. Una promessa più che mai sicura e chiara, che dovrebbe e deve assicurare ogni credente dell'attendibilità di tutto ciò che gli scrittori biblici hanno redatto, eppure per alcuni rimangono ancora dei dubbi. È molto difficile comprendere come sia essere sotto il controllo dello Spirito Santo, soprattutto per quelli che non lo hanno mai realizzato, per cui ritengo opportuno dare la mia testimonianza per incoraggiare ogni credente a credere senza riserve e dubbi a tutto quello che è scritto nella parola di Dio. E, risaputo da chi mi conosce che possiedo una memoria leggermente sotto alla media, soprattutto per quanto concerne nomi, vie e prezzi, che per me è una continua sfida ricordare, A scuola ero promosso appena con la sufficienza e, anche da adulto, non ho mai dato dei segni di grande perspicacia. Dopo la mia resa a Cristo all'età di 21 anni, mi sono messo a leggere avidamente la parola di Dio con la quale, da subito, ho instaurato un rapporto. Ora comprendo meno del tutto particolare. Mentre leggevo, non era come leggere uno scritto qualsiasi, ma ogni parola veniva impressa nella mia mente e nel mio cuore con una tale violenza da rimanervi scolpita. Certo, non è che letta una volta l'avessi imparata a memoria, come faceva Pico della Mirandola, ma quotidianamente letta e studiata per ore, questa parola restava letteralmente incisa nel mio pensiero, al punto di averla presente ad ogni istante esattamente come era scritta. Capitoli interi della Bibbia erano indelebilmente impressi nella memoria, senza nessuno sforzo umano. Com'era possibile? Da dove veniva tutta questa memoria? È difficile spiegare cosa stava succedendo, tanto che la prima persona ad esserne scioccata ero io. No, non è facile essere controllati dallo Spirito di Dio. Non è neppure carino. Non è certo un'esperienza simpatica per una persona razionale e così tanto gelosa di questa caratteristica come sono io, ritrovarsi, testimoniando del Vangelo e di Cristo, a ripetere a memoria quasi come la leggessi la parola di Dio. Forse qualcuno farebbe dei salti dalla gioia, ma in me suscitava la sensazione di essere fuori posto. Non ci ero abituato. Avrei voluto fare fatica a ricordare i brani della Bibbia, avrei preferito avere qualche dubbio, tanto per sentirmi più umano, ma lo Spirito mi ricordava la parola di Dio come se questa fosse parte del mio essere. È difficile spiegarlo, ma non ero in grado di comprendere la differenza tra me e lo Spirito Santo. Chi parlava? Ero io o qualcun altro? Del resto, poi, questo interrogativo credo sia comune a molti figli di Dio perché è scritto che il credente meno, e quindi anch'io meno, ha la mente di Cristo. 1 Cor 2.16. Con questa lettura sistematica e ostinata, ogni giorno, e sottolineo, ogni giorno, la parola di Dio imprimeva in me sempre nuove verità, con una violenza e certezze, che si distinguevano da una semplice nozione intellettuale. Era una ricezione diversa. Erano verità che comprendevo non far parte del mio essere. Verità che imprimevano in me indelebili sicurezze, per quanto estranee al mio bagaglio di conoscenza. Era come se in me ci fosse un altro essere, un essere affiancato alla mia natura umana ricevuta dalla nascita. Un uomo nuovo, col 3.10 e F4.24. Per forza di cose, pian piano sono arrivato a comprendere che erano rivelazioni che Dio dava al mio spirito e al mio cuore. Perché ho detto questo? Perché se questa è stata la mia esperienza, se ho potuto e posso ricordare perfettamente molte parole della parola di Cristo senza l'ausilio di un aiuto mnemonico, quanto più uomini decisamente migliori di me e che hanno conosciuto e sentito di persona Gesù Cristo, sono stati in grado di scrivere esattamente le parole di Gesù senza commettere un errore. Io ci credo, sia per fede, dando credito a ciò che afferma la Bibbia, sia perché ne ho fatto e proseguo a farne l'esperienza tuttora che mi avvicino alla settantina di anni. Desidero rimarcare quanto sia poco piacevole, dal punto di vista razionale, essere atipici e avere esperienze particolari. Innanzitutto, quasi la totalità degli eletti erano spaventati, al punto che, per citare un solo caso, Daniele svenne e fu malato per diversi giorni. Da 8.27. Altro che essere ansiosi. Di avere una particolare esperienza con Dio e con il suo spirito. Noi abbiamo un'idea romantica di Dio. Ma davanti ad una sua reale manifestazione, la reazione più comune è avere paura. Come l'ebbe Mosè, GN 3.6. Come l'ebbe Giacobbe, GN 28.17, Aaronne, S 34.30, come ebbero paura, gli israeliti ai piedi del monte Sinai vedendolo tutto in fiamme, DT 5.5, e i discepoli quando Gesù calmò, MT 8.26, e camminò sulle acque, MT 14.26. In parte ho fatto anche questa esperienza. Ci fu un periodo che conoscevo le cose senza l'ausilio della mia intelligenza. Avevo paura. Ecco un episodio. Un mio amico mi confida che aveva fatto una certa compera e ne era addolorato, perché aveva speso una cifra per lui troppo alta, ed io, senza il minimo dubbio e con una sicurezza che mi impressionava, gli risposi che lo comprendevo perché la spesa era stata di 7.385 euro. Mentre lui rispose che io lo sapevo perché qualcuno me lo aveva detto, io ero letteralmente sbigottito di me stesso. Episodi del genere mi facevano paura, come conoscere in anticipo ciò che mi veniva detto o come sarebbe terminato un certo episodio. Non era una sensazione, una supposizione, ma una certezza che neppure io capivo. Una certezza simile a quella che ricevevo nel leggere la parola di Dio. Ero talmente impressionato razionalmente che chiesi a Dio in preghiera di limitare questi episodi. Perché racconto anche questi fatti? Perché non ci è nulla di strano che i discepoli ricordassero ogni parola detta da Gesù e nulla di particolare che scrissero fedelmente ciò che Dio voleva. E anche niente di insensato, dato che Dio ha creato dal nulla, ha fatto parlare un'asina, ha reso incinta una vergine, ha risuscitato dei morti e tante altre opere razionalmente difficili da credere. Abacuc 1.5. Quando lo Spirito di Dio agisce, come disse Gesù ai suoi discepoli, non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi, EMT 10.20. È vero che noi sbagliamo in molte cose, GC 3.2, ma è altresì vero che lo Spirito di Dio non può sbagliare, perciò il tema dell'ispirazione della Scrittura si riduce ad un interrogativo. Crediamo noi che gli scrittori biblici abbiano scritto sotto l'influenza dello Spirito Santo? Dalla risposta che diamo mostriamo la nostra fede. E se l'incredulità persiste, chiediamo a Dio che la persona dello Spirito Santo parli in noi. Dopo questa esperienza avremo parole e convinzioni diverse. Marzo 2009. Ellero.